Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di banche sotto una duplice prospettiva, le banche private, il private banking e la funzionalità delle banche, l'organizzazione delle banche, con un libro che parla di banche snelle, lean banking. Ne parliamo di private banking con Roberto Ruozzi. Buonasera professor Ruozzi. Buonasera. Roberto Ruozzi è stato rettore della Bocconi, ma è ancora presidente del Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria, svolge attività di consigliere d'amministrazione in società ed enti, ha sempre seguito il sistema bancario, il sistema economico e ci parla di private banking tra passato e futuro in un libro edito da Spirali. Perché parlare di private banking ora, professor Ruozzi? Ma perché intanto si tratta di un'attività che ha preso uno sviluppo importante sia nel nostro paese sia a livello internazionale. È un'attività relativamente nuova perché è soltanto qualche decennio che si parla di questo fenomeno che non ha una definizione precisa da un punto di vista giuridico, ma che nella pratica riguarda le gestioni di patrimoni, in particolare di patrimoni finanziari, con una certa consistenza. Diciamo che oggi fanno parte del private banking le operazioni che riguardano patrimoni con almeno 500.000 euro. Quindi ecco, una gestione patrimoniale affidata a istituzioni ad hoc che sono specializzate in questa prospettiva. Invece perché parlare di lean banking, Fabrizio Mariorana? Ma parlare di lean banking perché diciamo le banche stanno assumendo una nuova veste, devono assumere una nuova veste, diventano sempre meno istituti e sempre più industrie, sia gli aspetti regolamentari che crescono, le nuove leggi sono un po' soffocate non direi, ma comunque crescono i limiti, i paletti regolamentari, c'è un'avversione al credito crescente da parte dei clienti, soprattutto una versione al rischio da parte dei clienti crescente, una versione quindi al credito da parte delle quindi banche. Si tratta anche di migliorare l'immagine delle banche. Sì, quindi si tratta semplicemente di adattare metodologie tipicamente del mondo industriale, adattarle alle banche per essere sempre più vicini al cliente, quindi più snelli nei processi. Lean Banking, un libro scritto da Fabrizio Mariorana, che è stato responsabile della qualità di Unicredito, adesso è consulente per le attività finanziarie del sistema bancario, scritto appunto da Fabrizio Mariorana con Alessandro Morelli ed edito dal Sole 24 Ore. Torniamo al private banking, professor Ruozzi. Questo libro racconta soprattutto la storia di una banca, della Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni. È un po' una storia rappresentativa del sistema del private banking. È una storia di un'iniziativa imprenditoriale estremamente interessante, partita 30 anni fa come una modestissima commissionaria di borsa, poi trasformata in SIM, ammessa da quotazione e infine diventata banca ai sensi letterali del termine, ultimamente ha avuto una ulteriore evoluzione entrando a far parte del gruppo Veneto Banca, di cui dovrebbe diventare la entità specializzata appunto in questa attività particolare come è il private banking. Ecco, in questa prospettiva il private banking in Italia non ha un grande passato, nel senso che questo è determinato più dal fatto che le banche non svolgevano questa attività o dal fatto che non c'erano patrimoni sufficienti per giustificare dal punto di vista dell'offerta una realizzazione di strutture di questo tipo? Ma diciamo che da un lato i patrimoni ci sono sempre stati, ma probabilmente venivano gestiti in modo diverso, in modo artigianale, direttamente dai singoli proprietari di quei patrimoni. Oggi il mondo è cambiato, si è molto complicato, l'orizzonte è diventato non più un orizzonte della piccola borsetta locale, ma è a livello globale, riguarda tutti i mercati finanziari e monetari del mondo, quindi necessita anche una professionalità che un tempo non era richiesta. Da un altro lato diciamo che questa professionalità non la possiedono tutti e quindi si sta selezionando il mercato nel quale ci sono banche specializzate, SIM, società finanziarie, liberi professionisti, perché non tutti in verità hanno le qualità professionali per poter raggiungere gli obiettivi che i loro clienti si prefiggono. Quindi c'è in atto una selezione e credo che vinceranno i migliori nell'interesse loro e dei loro clienti. Ecco, quindi sotto questo profilo però la struttura del sistema bancario italiano offre delle opportunità, offre anche delle possibilità diciamo operative che presentano efficienza e capacità e affidabilità a questa clientela? Beh, diciamo che chi si è occupato di queste cose nel mondo bancario è sempre stato parte di una elite specialistica, quindi che ha avuto a che fare con piccoli numeri, oggi ha bisogno di numeri più importanti perché i costi delle attrezzature per fare queste cose si possono ripartire in termini economici soddisfacenti per la clientela soltanto se c'è una certa scala nella produzione. Quindi la selezione è in atto, come dicevo, e ci sono dei fior di gestori che credo che stiano dando buone soddisfazioni ai clienti nonostante il pessimo andamento che i mercati finanziari hanno avuto negli ultimi anni. E quindi le poche soddisfazioni che si sono avute dai mercati finanziari, poche soddisfazioni, per dire forse più delusioni. Ecco, gli ultimi due capitoli del suo libro, il Private Banking tra passato e futuro, parlano degli scenari futuri e uno parla di scenario conservatore e l'altro di scenario innovativo. Ecco, quali sono le caratteristiche molto in sintesi di questi due scenari? Beh, lo scenario diciamo conservativo è quello di modificare anche magari in termini organizzativi, come è stato detto prima, l'attività di queste banche, io mi occupo delle banche in particolare, perché ci sono degli spazi importanti, poi la concorrenza ha fatto sì che il ritorno su queste operazioni per le banche che lo fanno stia calando, per cui è necessaria una maggiore efficienza se si vuole essere competitivi sul mercato. Quindi questo è lo scenario, diciamo, conservativo. Lo scenario innovativo è invece prendere atto che probabilmente molti prodotti sono ormai superati, vediamo la crisi del mercato azionario, la crisi del mercato obbligazionario, la crisi dei fondi comuni, eccetera, eccetera, e quindi probabilmente occorre trovare dei prodotti che siano più flessibili, più tagliati per le esigenze dei singoli clienti e che resistano meglio alle crisi inevitabili che i mercati finanziari torneranno ad avere nei prossimi anni. Certo, quindi una grande capacità di innovazione. Fabrizio Maiorana, le banche hanno questa capacità di innovazione, cioè di riuscire a migliorare la propria qualità, possibilmente, come si dice nel libro, riducendo i costi? La devono avere per stare nel mercato. La concorrenza è molto forte, la fidelizzazione, diciamo, verso le banche scende precipitosamente, non c'è più quella fidelizzazione, diciamo, familiare che si aveva un tempo, per cui si possono avere benissimo il conto in una banca piuttosto che il mutuo in un'altra. Il punto è quindi quello di essere veloci nei processi, molto veloci nei processi, per dare delle risposte veloci, positive o negative che siano, ma la clientela ha sempre più bisogno in questo momento di risposte veloci. Ecco perché occorre snellire i processi in misura considerevole per arrivare velocemente a queste risposte, a questi servizi, trattare i processi come se fossero dei veri e propri processi industriali, con delle vere e proprie stazioni di montaggio o smontaggio, perché alla fine dietro una carta di credito ci sono mille fasi, mille firme e mille attività che stanno a monte, e inevitabilmente tagliare dei costi interni che se no cadrebbero in qualche parte comunque sulle... Ma è un problema organizzativo o è un problema che deriva dalla struttura regolamentare, dai processi, dalla necessità di seguire determinate regole e determinate procedure? Ma allora, un po' e un po', nel senso che le banche comunque sono cresciute, come dicevo prima, un po' da istituti, e quindi ci sono sicuramente dei retaggi. Sicuramente quando andiamo a snellire dei processi vediamo che ci sono delle firme che nessuno magari chiede e magari qualcosa in più che non fa parte assolutamente di aspetti regolamentari, e sicuramente degli aspetti organizzativi, sia storici sia di asset interno. Spesso molti istituti si trovano con una cosiddetta vicinanza verso la clientela che di fatto poi non lo è. Ci sono dei metodi importanti che permettono anche di misurare quanto siamo lontani, non soltanto se lo siamo, ma quanto siamo lontani dal nostro punto di vista rispetto a quello che invece percepisce il cliente. Quindi c'è un percepito differente da quello che è la visione del fornitore. Ecco, concluderei con il professor Ruozzi, dando un'occhiata un po' complessiva non solo al private banking ma al sistema bancario, anche nell'ottica che dicevamo poco fa. Il sistema bancario in Italia ha subito una transizione veloce, una trasformazione, aggregazioni complessive. Ecco, è una transizione, è ancora in corso e deve ancora fare dei passi significativi, professor Ruozzi? Ma guardi, io sono giunto alla determinazione che io ho studiato a questi problemi da circa 50 anni. Quindi per questi 50 anni mi sono reso conto che ho fatto studi su quella che è una ordinaria manutenzione di un modello di banca che di fatto non è cambiato nel corso del tempo. Ecco, oggi stanno venendo al pettine tutta una serie di nodi che sono stati accumulati nel corso degli anni, che riguardano la sparizione della moneta contante, la sparizione degli assegni, la crisi degli sportelli, l'enorme esubero del personale, le diverse esigenze della clientela, la mutata concorrenza, eccetera, eccetera, che fanno sì che occorra fare non più manutenzione ordinaria, ma una vera e propria rivoluzione, cioè andare alla ricerca di un nuovo modello di banca. Questo non è ancora ben definito, ma è inevitabile che questo accadrà sotto l'impatto dell'information technology, sotto l'impatto della necessità di terziarizzare operazioni che oggi le banche fanno direttamente in modo non economico e male. Quindi direi che siamo alla vigilia di una vera e propria rivoluzione. Chi riuscirà a cavalcarla avrà delle opportunità straordinarie, chi non riuscirà o non vorrà affrontarla finirà per uscire dal mercato. Grazie a Roberto Ruozzi e a Fabrizio Majorana che sono grazie stati con noi questa sera. Ricordo i due libri di cui abbiamo parlato, di Roberto Ruozzi, Private Banking tra passato e futuro, edito da Spirali, sono 260 pagine per 18 euro, di Fabrizio Majorana insieme ad Alessandro Morelli, Lean Banking, edito dal Sole 24 Ore, sono 206 pagine per 21 euro. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.